perso, l'azzurro al bianco di marmo, dei chiostri martellanti di campane, tuoni travolti d'angeli bruniti su selciati sacri e scivolosi, poi da gorghi putridi di corpi seminudi su per le erte lisce, fanciulle leonardesche inghirlandate mi invitano a una sacra oscenità nelle edicole elettriche dei bassi. A mezzanotte scoppi di fanfare, fruste di vento sui vetri dei caffè mi annientano e spargono odore di chiuso tra gli spruzzi di fontane. La bellezza della carne è stanca, ormai che da sé tramontano le stelle, e l'alba si trasmuta a noi eguale, a buio di cielo o di fondale.